Elegie, capitolo quindicesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito librivox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli, capitolo quindicesimo, Elegie. Primo, la felicità. Quando all'alba dall'ombra s'affaccia, discende le lucide scale e vanisce, ecco, dietro la traccia d'un fievole sibilo d'ale, io la inseguo per monti, per piani, nel mare, nel cielo. Già in cuore io la vedo. Già tendo le mani, già tengo la gloria e l'amore. Ahi, ma solo al tramonto m'appare, sull'orlo dell'ombra lontano, e mi sembra in silenzio accennare lontano, lontano, lontano. La via fatta, il trascorso dolore m'accenna col tacito dito, improvvisa, con lieve stridore, discende al silenzio infinito. Secondo, sorella, a Maria. Io non so se più madre gli sia la mesta sorella o più figlia. Ella dolce, ella grave, ella pia, corregge, conforta, consiglia. A lui preme i capelli, l'abbraccia pensoso, gli dice: che hai? A lui cela sul petto la faccia confusa, gli dice: non sai? Ella serba nel pallido viso, negli occhi che sfuggono intorno, ah, per quanto egli parte il sorriso, le lagrime per il ritorno. Per l'assente la madia che odora serbò la vivanda più buona, e lo accoglie lo sguardo che ignora, col bacio che sa, ma perdona. Ella cuce, nell'ombra romita non s'ode che l'ago e l'anello, ecco. L'ago fra le agili dita ripete: stia caldo, sia bello. Ella prega un lungo alito d'Ave Marie con un murmuro elene. Ella prega ed un eco soave ripete: sia buono, stia bene. Terzo, 10 agosto. San Lorenzo. Io lo so perché. Tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano. E il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero, disse, perdono. E restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita, le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male. Quarto, l'anello. Nella mano sua benedicente l'anello brillava lontano. Egli alzò quella mano, morente. Di caldo s'empì quella mano, o mio padre, di sangue. L'anello lo tenne sul cuore mia madre, o mia madre. Poi l'ebbe il fratello mio grande, o mio piccolo padre. Nel suo gracile dito il tesoro raggiò di benedizione. Una macchia aveva preso quell'oro di ruggine presso il castone. O mio padre, di sangue. Una sera la macchia volevi lavare, o fratello? Che pianto fu! T'era caduto l'anello nel mare. E nel mare è rimasto, nel fondo del mare, che grave sospira. Una stella dal cielo profondo, nel mare profondo, lo mira. Quella macchia, s'adopra a lavarla il mare infinito, ma invano. E la stessa che vede, ne parla al cielo infinito, ah, invano. Quinto, agonia di madre. Muore. Sfugge alla morta pupilla già il bimbo che geme al suo piede. Ode un suono lontano di squilla. Son due. Gli occhi grave apre, vede. Uno piange, ma l'altro sorride d'un bianco sorriso di cieco. Ella guarda, ella pensa. Lo vide così, quando? E ha come l'eco d'un gran pianto nel cuore, la traccia di lacrime morte negli occhi. Ah, ricordano un peso le braccia, ricordano un peso i ginocchi, grave. Due sono i bimbi, uno piange, ma dorme il più piccolo ancora. Ella versa dal cuore che si frange le lacrime d'ora e d'allora. Dormi, o angelo, destati. Destati, mormora il cuore. Tra la culla e una bara s'arresta la mano sua, rigida. Muore. Il suo primo, il suo morto è sparito con lei che nell'ombra lo reca. Piange l'altro. Ella node il vagito col bianco stupore di cieca. Sesto, lapide. Dietro spighe di tasso barbasso, tra un rovo onde un passero frulla improvviso, si legge in un sasso. Qui dorme Pia Gigli, fanciulla. Radicchiella dall'occhio celeste, dianto di porpora. Sai, vilucchio, di Pia? La vedeste, libellule tremule, mai? Ella dorme. Da quando raccoglie nel cuore il soave oblio? Quante, oh, le nubi passate, le foglie cadute, le lacrime piante, quanto, oh Pia, si morì da che dormi tu, pura di vite create a morire, tu, vergine, dormi, le mani sul petto incrociate. Dormi, vergine, in pace. Il tuo lene respiro nell'aria lo sento assonare al ronzio delle andrene, coi brividi brevi del vento. Lascia argente il cardo al leggero tuo alito i pappi suoi come il morente alla morte un pensiero vago, ultimo, l'ombra d'un nome. Fine del capitolo quindicesimo.